Buongiorno. Buongiorno. Allora? Sono matta? Non hanno ancora deciso. Capisco. Ecco, questo indicherebbe che non lo Infatti è. Infatti non lo sono. Vedremo. Lo decide lei? Lo scoprirò io, sì. Wow. Elettrizzante, mi eh? Mi sto eccitando. Ok, cominciamo. Come si chiama? Senti, dammi pure del tuo, ok? No, e non mi sembra di averle detto di farlo con me. Come si chiama? Ti dà fastidio? Non la conosco e lei non conosce me. Mi dia del lei e mi dica il suo nome. Mi scusi allora. Lei però può darmi del tuo, è il mio permesso. Non gliel'ho chiesto. Le ho chiesto solo il nome. Sulla cartella clinica non c'è scritto? La sto compilando ora. Il suo nome è un segreto o possiamo arrivare alla seconda domanda? Mary. Mi chiamo Mary. Bene, Mary. Quanti anni ha? Quanti me ne dà? 18. Ho 18 anni. Lei quanti anni ha, dottoressa? E come si chiama? Siamo qui per lei. Ho 36 anni e può chiamarmi dottoressa. Capisco, quindi lei è fresca fresca di laurea e ha paura del Mary, transfer. Intendiamoci. Se lei ha intenzione di ribaltare la situazione, invertire i ruoli, non è che da andare là fuori, iscriversi a medicina, specializzarsi e tornare qui fra una quindicina d'anni. Ma stando così le cose, si limiti a rispondere alle mie domande. Entrambe sappiamo perché lei è qui. D'accordo. Collaboro. No, risponda. Lei sa perché è qui? È in grado di dirmelo? Certamente, perché ho ucciso i miei genitori. Suo padre, solo suo padre. Per sua madre l'accusa è di tentato omicidio. È viva? Sì. Bene, è tutto per oggi, può andare. Come? Può andare, la riaccompagneranno in camera. Non vuole sapere perché l'ho fatto. Se è davvero matta, sarò io a dirlo a lei. Sì, e se non lo sono? Se non lo è, lo dirà a chi di dovere. Mi riguarda solo se è malata. Ora vada. Buongiorno. Signora Phyllis, come, chi ci fa qui? Buongiorno, lo so, non dica niente, ho insistito. Ma le hanno detto che non è proprio il caso e poi... Ho insistito io per essere qui, la prego. Non deve pregarmi, non posso impedirglielo, ma glielo abbiamo sconsigliato. Sì, quindi la responsabilità è mia. D'accordo, mi dica come sta. Come vuole che stia. Lei vorrebbe vederla. Certo che voglio vederla, è mia figlia, non posso vederla. Per ora comunque no, tra qualche giorno. Ma se l'ho detto che voglio non vederla... Non è per lei, è per Mary. Non vuole vedermi? Questo non conta. Appena potrà ricevere visite, potrà vederla, se per vorrà. Per me conta, non vuole vedermi? Non sapeva che fosse viva. Come non lo sapeva? Gliel'ho detto io poco fa. E cosa ha detto? Niente, era allibita. Ma le è sembrata, non so, avrà avuto un'impressione, signora Phyllis, qualcosa ho visto di... sua figlia oggi per la prima volta. È rimasta allibita ed è tutto quello che posso dirle per ora. Mi dica come sta lei. Non voglio parlare di come sto io, voglio sapere come sta mia figlia. E perché lo vuole sapere? Perché è mia figlia, ok? Ha cercato di ucciderla, signora Phyllis. Ha ucciso suo marito. Lo so. Lo so. Io ancora non riesco a crederci. Lei non dovrebbe essere qui, vada a casa. A casa? Sì, a casa. A riposare, a riprendersi, a elaborare. Non ci voglio stare a casa. Ha un altro posto dove stare? No. Non lo so. Da mia sorella. Ecco, magari può chiedere a lei, così non rimane da sola. Glielo devo chiedere. Glielo chieda, è meglio che non rimanga sola per un po'. Dottoressa, che cosa è successo? Come? Io non riesco a capire. No. Lei ha studiato, lei sa cosa è successo. Signora, io non so ancora darle una risposta. Ho visto sua figlia poco fa e ho avuto il caso ieri. Tutto quello che posso fare è... Venga a trovarmi se ne ha bisogno. A trovarla? Sì, qui in ospedale o in ambulatorio. Se vuole parlare con qualcuno, se vuole un aiuto. La ringrazio, ma no, no. Io voglio solo parlare con mia figlia. La prego, questo aiuto le chiedo. Vogliono impedirmelo, non glielo lasci fare. Chi vuole impedirglielo? Non lo so, non lo so. Insomma, io voglio parlarci. Ci parlerà. Non si preoccupi. Ora, pensi un po' a lei, però. E chi vuole pensare? Signora Phyllis, lei ha appena vissuto una cosa terribile. Lo so. Tutto quello che è successo è vero ed è difficile da accettare. Nessuno le restituirà a suo marito. Se vuole, può venire a parlarmi quando se la sente e poi le darò il numero di qualche collega. Non voglio parlare con nessuno, voglio parlare con mia figlia. Ho capito. Appena sarà possibile potrà venire. Ma quando potrò... L'avviserò io stessa. Va bene. Grazie. Dottoressa, cosa è successo? Non lo so adesso, ma sono qui per scoprirlo. Sono qui per aiutarla, se vuole. Grazie. Arrivederci. A presto. Quindi è viva? Buongiorno, Mary. Sua madre? Sì, è viva. È venuta qui ieri. È stata qui. E cosa voleva? Cosa le ha detto? Ne parleremo dopo. Ha dormito? Sì. Un po'. Il letto è scomodo. I materassi sono molto morbidi. Io lo preferisco duro. Sempre. Capisco. Ha fatto qualche sogno strano? Particolare, se se lo ricorda? No, non mi pare. Poi me lo ricorderei. Si sogna sempre. Non è detto che ce ne ricordiamo. Quindi niente? No. Perché? Lei interpreta i sogni? È così che scoprirà se sono matta? Ci tiene tanto. A cosa? A essere matta. No, io non sono matta. Le piacerebbe che lo pensassero? Vedrebbe un certo fascino, secondo lei? Non lo so, lei trova che mi donerebbe? Non mi sono posta il problema. Comunque, parliamo di lei. Che studi ha frequentato? Il liceo classico. Ha buoni voti nelle materie umanistiche, mi hanno detto. Sì, mi piace la letteratura. Soprattutto quella greca. Lei conosce le poesie di Saffo? No. Beh, allora dovrebbe leggerne qualcuna. Terrò presente. Lo sa che la poetessa sì, ama le lo so. Le piace questo di lei? Dipende, anche. Chi meglio di una donna sa amare una donna? A lei piacciono le donne? A me piacciono tutti. Ma soprattutto mi piace piacere. E mi piace il piacere. Non importa da chi. È un po' come l'amore per l'amore, se capisce. Ok. Ah, un ragazzo? Una ragazza? No, non mi segue. Io non posso limitare il mio piacere a qualcuno. Io voglio poter avere chi voglio. Ritiene che così possa essere libera? Così sono libera. Quindi è questo che pensa. Lei non è d'accordo? Non ha importanza quello che penso io. No. Dunque, lei non ha una relazione stabile? No, non voglio averne. Ne ha mai avute? Mi scusi, che c'entra? Prego? Che c'entra questo col fatto che ho ammazzato i miei? Si limiti a rispondere. Non posso sapere niente. Cosa vuol sapere? Che cosa sta facendo? Come procede? Come lavora? E perché vuole saperlo? Sta studiando me, no? Sto cercando di capire se ha agito consapevolmente o no. Ma io l'ho fatto, ho voluto farlo, gliel'ho già detto. Lo so quello che mi ha detto. E non mi crede? È in una situazione delicata, Mary. Le consiglio di rispondermi. Sì. Ha mai avuto delle relazioni stabili? Una, se si può dire così, avevo 15 anni. Con un ragazzo o con una ragazza? Un ragazzo, è durata un anno. Ha perso la virginità con lui? Non le sembra un po' personale? Lo è, risponda. Devo? No, glielo consiglio soltanto. Lei lo vuole sapere? Gliel'ho chiesto. Sì, ma lei ci tiene a saperlo? È il mio lavoro. Ma a lei importa, io risponderò solo se farà piacere a lei. Risponda allora. Bene. Bene, lei mi piace, glielo voglio dire. No, non con lui. Bene. Vuole sapere con chi? Quando? Vuole conoscere tutti i dettagli? No, grazie. Non ho problemi a parlargliene? Lo so. Come fa a saperlo? Lo immagina? Immagina come sono? E altre fantasie su di me, dottoressa? Me lo ha detto. Le piace piacere. Vero, com'è brava nel suo lavoro. Perché si è messa con quel ragazzo? Chi? Paolo? Non so il nome. Si chiamava Paolo. Beh, si chiama Paolo. Bene, allora sì. Non lo so, era tranquillo, si faceva gli affari suoi. Non le dava attenzione? Lei crede che io sia una di quelle corteggiata da tutti, che ha scelto l'unico che non la notava pur di conquistarlo? No, non credo niente, ma la situazione che ha descritto è piuttosto comune. Sì, è andata così? No, non è andata così. Mi corteggiavano in pochi, tra i quali lui, e lui era il più sfigato, se capisce cosa intendo. Credo di sì. Sembrava un idiota. Bene. Dovevo mostrargli tutto io, dove mettermi le mani, come baciarmi, capisce? Certo. E perché è finita? Ho conosciuto un ragazzo che sapeva guardarmi e che voleva insegnarmi altre cose. Ha avuto una relazione? No, solo rapporti sessuali. Abbiamo fatto sesso, abbiamo scopato. Come preferisce che lo dica? Credo sia ininfluente. Una volta abbiamo anche fatto l'amore. Ne era innamorata? Non è morto. Ha ancora rapporti con lui? No, ne sono ancora innamorata. Lui è innamorato di lei? Non lo so, non me l'ho mai detto. Glielo ha dimostrato? No. Non lo so, c'è un codice per capire certe cose. Lo vuole sapere per potermi rispondere? Lo voglio sapere per saperlo. Credo non esista un unico modo per dimostrarlo, no? Secondo lei, lui è innamorato di lei? Secondo me no. Scopa in giro, non sono l'unica. Da questo lei deduce di no. Cos'altro dovrei pensare? E come la fa sentire questo? Insignificante. Dice davvero? No, com'è? Perché me lo ha chiesto? Come la fa sentire? No, se è vero, perché mi ha chiesto se è vero? Per sapere se è vero. Come ha indovinato che non era così? L'ho ipotizzato, l'ho dedotto, non sono un'indovina. No, ma è molto brava. Quando hai avuto l'ultimo rapporto con lui? 2 settimane fa. Ho una curiosità che a volte mi stranisce, dottoressa. Le do fastidio? No, no, niente affatto. Io semplicemente non capisco dove voglio arrivare. Voglio arrivare a capire se è matta o no, come dice lei. Nient'altro, sono qui per questo. Oh, com'è ligia. Come la fa sentire il fatto che il ragazzo di cui è innamorata abbia rapporti sessuali in giro, come ha detto? Mi fa sentire bene, a mio agio. Coerente con le mie idee di libertà. Gliel'ho detto, lo faccio anch'io. Ma di lui è innamorata. Per questo voglio che sia libero. Bene, Credo che per oggi possa andare. Ci vediamo domani alla stessa ora. Dice davvero? È già finito? Sì. E io adesso dovrò tornare nel mio letto a fare fantasie su di lei fino a domani? No, può usare il tempo in altri modi. L'ho messa in imbarazzo. Ci tiene molto? Voglio solo saperlo. No, non mi ha messo in imbarazzo. Su, via, dottoressa. Non sarà mica di marmo. Fa un mestiere così intrigante, non mi dirà che adesso... A domani, Mary. Pronto? Ciao, amore! Da sola? Ma sei bravissima! Quando arrivi a casa me lo mostri. Sì. Sì, presto. Sì, davvero. Certo. Ti voglio tanto bene, amore. Mi passi il papà? Oh. Posso? Posso disturbarlo un minuto? Certamente. Buongiorno. Come... cosa posso fare per lei? Credo di volerle parlare. Ma certo, può farlo. Mi faccia vedere quando non posso... Non le posso parlare ora. Sarebbe meglio... Sì, naturalmente. Ma per le prossime volte dovremo fissare degli appuntamenti. Ma certo, non ci ho neanche pensato, le sono piombata qui. Non si preoccupi, siamo qui, l'ascolto. Mi faccia guardare quando posso inserirla. Domani? Se vuole, sì, domani. Alle 11? Può andare bene per lei? È tardi? Non ho niente da fare, non ho altri impegni, andrà benissimo. Bene, quindi ci vedremo il giorno. Ogni giorno? Ogni giorno alle 11, può andare? Ascolti, senta cosa le propongo. Lo decidiamo di giorno in giorno in base all'agenda e a come si sente, d'accordo? Mi sembra la cosa migliore. Grazie. Ma non voleva parlarmi? No, non voglio disturbarla. Se funziona così vado via. No, non c'è problema. Se vuole parlarmi l'ascolto. Quando dovrò andare l'avviserò e ci vedremo domani. Si accomodi. Lei è molto buona. Non scomodiamo questo genere di considerazioni. Questo è il mio mestiere. Mi pagano. Non ce la facevo più a stare a casa oggi. Sono contenta che sia venuta qui invece di... Ha fatto bene a venire. Mi mancano. Mi mancano tantissimo. Sì. Mi mancano mia figlia e mio marito. Sì. Io non capisco più cosa succede. Insomma, un giorno mi ritrovo a casa mia, da sola, e non capisco perché. Credo sia terribile quello che le è capitato. Quello che ci è capitato. Sì, ma io ora sto parlando di lei. Sto parlando con lei. Perché lo ha fatto? Signora Phyllis. Davvero, che cos'ha? Bisognerà farle qualcosa, qualcosa al cervello, delle pastiglie, come funziona? Cosa intende? Sì, io non so niente di queste cose. Delle malattie mentali. Si dice così, no? Come funziona? Mi spieghi. Beh, è complicato. Per questo voglio che me lo spieghi. Io non so se sua figlia abbia una malattia mentale. Ma come no? Certo, cosa la spingerebbe a fare una cosa del genere? Ho detto che non lo so. Magari ce l'ha. Non lo so ancora, lo sto studiando. Quindi lei non pensa che Mary... Non lo posso dare per scontato. Per questo si fa una perizia. Non si può stabilire una cosa del genere con leggerezza, le pare? Posso testimoniare? Cosa testimonierebbe? Non lo so. Cosa posso fare per aiutarla? Vuole aiutare me? Vuole aiutare sua figlia? Sì, certo che voglio aiutare mia figlia. Naturalmente, però è un discorso... Complicato? Però non prenderanno e la condanneranno così, no? No, appunto, per questo me ne sto occupando. Proprio per capire come stiano le Ma cose. Ma conterà pure quello che dico io? Certo, signora Phyllis. La sua testimonianza sarà importante, è ovvio. Solo che non è ancora il momento, ecco. Vado. Grazie, non me la sono presa, ma... Vado. A domani. A domani. Di cosa parliamo oggi? Lei di cosa vorrebbe parlare? Posso scegliere? No, ma magari può servirmi ugualmente. Capisco. Non si scompone mai lei, eh? Una donna tutta d'un pezzo. Mi sembra di capire di non piacerle. No, niente affatto. Lei mi piace, molto. E di cosa vuole parlare? Di lei. Di me? Sì, perché non si può? In effetti non è proibito. Quindi possiamo parlarne? No, non lo faremo ugualmente. Devo parlare di me? Sì, o di quello che lei preferisce. Bene, dei miei sogni. Si ricorda un sogno di questa notte? Sì, glielo racconto. Se vuole. Posso raccontarglielo anche se la riguarda? Ha sognato di me? Sì. Beh, allora sì, prego. Bene, posso parlarne liberamente? Tutto quello che preferisce dirmi sul sogno. Beh, ecco, eravamo qui e lei era vestita come ieri. Anzi, no, in realtà non so come era vestita. Lei ha sempre addosso quel camice. Beh, se lo toglieva. Mi toglievo il camice? Sì, continuo. Come vuole. Ecco... In realtà non se lo toglieva lei. Lei era sempre fredda, come nella realtà. Ma mentre io le toglievo il camice, lei non faceva nulla per impedirmelo. Anzi, credo che le piacesse. Continui pure. Le piace? La sto ascoltando. Sì, ma le sta piacendo? Mi sto limitando ad ascoltarla, riesce ad accettarlo? Va bene, continuo. A un certo punto le ho tolto anche la camicetta che indossava, i pantaloni, le mutandine. Continuo? Se vuole continuare. Gliel'ho leccata. Non dice niente. Cosa dovrei dire? Le piaceva molto, devo dire. È tutto? Purtroppo sì. Allora che cosa mi dice? Cosa dovrei dire secondo lei? Beh, non lo so, ho sognato questa cosa, non mi dice che cosa vuol dire. Può voler dire molte cose. Ad esempio? Si interpretano i sogni, non le fantasie. Quello che mi ha descritto sembra più una fantasia che un sogno. Lei è proprio in gamba, eh? Beh sì, in effetti non l'ho sognata. Oddio, ad occhi aperti forse. Lo immaginavo. Sembra che senta il bisogno di impressionarmi. Ci sarebbe qualcosa di male? Io devo solo sapere il perché. Come perché? Me lo ha detto anche lei ieri, no? Per il piacere di piacere, no? Come mi vede lei? Ah, ma allora le interessa. Devo capire che ruolo crede che io abbia. Beh, lei è la dottoressa, giusto? È quella che studia il mio cervello, no? Certamente, ma per lei? Per me? Cosa vuole che le dica? Ho già delle fantasie erotiche su di lei. Per me vorrei che fosse molto più di questo. Una madre? Come? Mi vede come una madre? Che c'entra? Risponda. No, non ho bisogno di una madre, ok? No, infatti, ne ha già una. Sì, a quanto pare ce l'ho ancora. E allora cosa cerca? Che cosa l'hai preso? In che senso? È diventata antipatica. Le ho solo chiesto cosa cerca. Io non cerco niente, non cerco più niente. Si sta rendendo conto di quello che è successo? So benissimo quello che è successo. E come si sente? Che cosa sta cercando di farmi? Cosa? Adesso non va più bene, mi dice che non la metto in imbarazzo e poi invece mi pugnala così. Mary, cosa sta dicendo? Questo dico, che lei è una bugiarda, dico. Le ho fatto una domanda. No, dottoressa, quella non era una domanda. E cos'era secondo lei? Era una provocazione. Una provocazione, un test. E come sto reagendo, dottoressa? La mia reazione era prevista o si aspettava che di colpo mi facessi piccola piccola e magari piangessi e magari le chiedessi anche scusa? Mary, era una domanda. Mi aspettavo che rispondesse. Certo, e lei si aspetta che io mi beva queste cazzate. Sono tutte cazzate, no? Avete già deciso, no? Ma con chi sta parlando? Beh, dottoressa, non ha funzionato, non ha funzionato, e glielo dica. Anzi, glielo dico io. Mi dispiace deludervi, non ha funzionato. Ma con chi sta parlando? Con quelli dietro lo specchio. Non c'è nessuno dietro lo specchio. No, è solo uno specchio. Lei vede molti film. Certo che vedo molti film, perché la realtà è una merda, dottoressa. Ha capito? È una merda perché mentono tutti, anche lei. Pensa che lei abbia mentito? Sì, certo. Riguardo a cosa? A tutto. Riguardo a sua madre? Come? Sto cercando di capire cosa è successo. Perché mia madre allora è morta? No, sto cercando di capire in cosa le ho mentito secondo lei. Lei non è qui per aiutarmi. Non le ho mai detto una cosa del genere. Ma io l'ho pensato. Mary, si sieda. Sì. Respiri, beva un po' d'acqua. No, non la voglio l'acqua. Si calmi però, se no è inutile. Cosa? Che parliamo. Di solito è utile? Beh, devo farmi un quadro clinico, sì, è utile ogni seduta. E com'è il mio quadro clinico, dottoressa? Sono matta, secondo lei, no? Non è ancora il momento, si calmi. Sono calma. D'accordo, ho bisogno di sapere perché è arrabbiata. Non sono arrabbiata. Sì, lo è, ma non so il motivo, è perché non trova quello che cerca. Ancora con questa stronzata? Vede, quando gliel'ho chiesto ha cambiato completamente atteggiamento. Io sto cercando di capire il motivo. Però, dica. Com'è più disponibile dopo che ho alzato un po' la voce? Ma le sembro più disponibile? Beh, mi spiega quello che fa, perché lo sta facendo. Perché la riguarda, perché se sa perché chiedo una cosa non è riluttante a rispondere. Ma guarda, la dottoressa ha una tattica. Mary, cosa sta cercando? Non sto cercando niente, non siamo in un film. Che me lo dica o meno, è importante che trovi una risposta. E perché? Se no, non hai il diritto ad arrabbiarti a non trovarla. Aspetta qui. Avanti. Oh mio Dio, tesoro. Cosa sta succedendo? Tesoro, come stai? Come stai? Dimmi come stai. Dottoressa, tesoro. Che significa? Sua madre voleva vederla. Non me lo poteva dire. Non sono tenuta a farlo. Ho insistito io, amore, non te la prendere con lei. Non funziona così. Cosa c'è? Cosa dici? Come funzionerebbe secondo non lei? Non così. Amore, Mary, dimmi come stai. Incazzata sto, non ci si comporta. Cosa così. C'è? Non volevi vedermi, non ti hanno avvisata, mi dispiace. Non ci ma si io... comporta così. Mary, sua madre vuole parlarle. Non ci si comporta così. Mary, parliamo, amore, non ti prego. Non ci si comporta così. Mary, forse è meglio rimandare a domani. No, no, sono qui, siamo qui ora, va bene. Non le parlerà. Ma le parlerò non io. Non ci si comporta così. Non l'ascolterà. Lei non ha figli, vero? Non ha importanza, signora. Ce l'hai come? Questi minuti sono importanti per me, sono importanti. Non ci si comporta così. Non vede che sta chiusa e sta lì. Lo vedo e lo so, la conosco, è mia figlia. Forse lei non si rende conto di questo. Non ci si comporta così. Certo che me ne rendo conto. E allora mi lasci stare qui a parlarne. Le ho solo fatto presente che non è utile. Non mi importa. Io voglio stare qui, ho il mio tempo a disposizione, lo userò tutto. Non ci si comporta così. Come vuole, ma ancora pochi minuti. Io sarò qui fuori con due infermieri per qualsiasi evenienza. Sì, me l'ho già spiegato. Se lo ricordi. come posso dimenticarlo? Non ci si comporta così! Lo so, non te l'aspettavi, avrebbero dovuto avvisarti. Tutti voi non dovreste comportarvi così. Cosa dici, Mary? Non ti capisco. Perché sei qua? Come perché? Ho cercato di ucciderti, mamma. Ma adesso scopriremo che cos'hai, andrà tutto a posto, vedrai. Io non ho niente, mamma, niente. Ho solo cercato di ucciderti. Tesoro, non ti rendi conto? Certo che mi rendo conto, e smettila con questo tuo modo, mi dai nervi. Sempre così, ma quando la smetterai, eh? Mary, ma che cos'hai? Niente, oh mamma, niente. Sono solo stufa di queste tue moine, di questi, oh Mary. Guarda che ci siamo solo io e te ora. Sì, amore, sono proprio io e te. Quindi basta fingere. Ma cosa dici, amore? Smettila, a me non puoi mentire, io ti conosco. Io lo so le cose come stanno. Tesoro, ti prego, non ti arrabbiare, non sai quello che sto dicendo. Certo che lo so, era solo questione di tempo. No, amore, no. E non toccarmi. Ma perché? La vuoi smettere con questa farsa? Ma non è una farsa. Te lo ricordi che ho ucciso papà? Te lo ricordi? Sono stata io, mamma. Ti ricordi? E che non c'è più tuo marito, te lo ricordi? Te lo ricordi? Te lo ricordi? Lo so, ma... Niente, ma smettila! Era solo questione di tempo. Beh, ho vinto io. Quasi. Mary. Ma tu sei ancora viva. Mary, amore... Smettila, ho detto! Tutto bene? Mary, devi andare di Laura. Perché? Vado. No! Si sieda. No, non voglio sedermi. D'accordo, mi racconti. Cosa vuole che le racconti? Mi dica lei qualcosa, mi dica cosa bisogna fare per aiutarla. Io ho dei soldi da parte, non signora mi interessa Phyllis, quanto non è ancora passerà. Il momento di parlare di queste cose. Come no? E quando? Quando sarà troppo tardi? È già troppo tardi. Come dice? Mi scusi. Le chiedo scusa, non dovevo alzare la voce. Non fa niente. Come è già troppo tardi, non potete fare niente non per so aiutare. Ancora se si debba fare qualcosa, se... Non so, finora non ci sono elementi per dire che sia malata. Come no? Ma ha visto? Ha visto come fa, cosa dice, ha sentito? Come può dire che non ci sono signora elementi? Phyllis, ha visto, ha sentito? Si sieda adesso, per favore, si calmi. Non risponde. Perché non risponde? Ha sentito benissimo, non può fare finta di certo niente. Certo che ho sentito. E allora perché sta continuando a ignorare si quello sieda che le dico? Io aiuterò mia figlia, dottoressa. Che lei lo voglia o no. Certamente. D'accordo. Mi parli di lei ora. Di me? Che c'entra adesso? Adesso è il momento in cui può aiutare sua figlia. La aiuti. Io le farò delle domande adesso. Per il tribunale? Anche per il tribunale, certo. Che lavoro fa? Io? Sì. Io non ho un lavoro, dottoressa, ma non vedo. La prego, come però, questo io possa ho bisogno aiutare. Che si fidi di me. Ho bisogno che risponda alle domande e si fidi di me. D'accordo. Le chiedo scusa. Lavoravo in una boutique. Mi sono licenziata quando ho scoperto di aspettare Mary. Come mai? Gliel'ho detto, perché ho scoperto di aspettare Mary. Ma non è automatico. Volevo dare la massima attenzione a mia figlia. Voleva rimanere a casa. Volevo crescerla, esserci. Bene, era contenta. L'avete voluta. Senta, dottoressa, se pensa che non l'abbiamo amata abbastanza... Aspetti, io non penso niente di tutto questo. Perché mi sta facendo queste domande allora? Le chiedo scusa, io non volevo che si sentisse attaccata. Eravamo molto contenti. Quando è nata, Mary è sempre stata la luce dei miei occhi, dei nostri occhi. L'avete amata molto? La amo molto, sì. Io. Mi scusi, dottoressa, ma non riesco a capire quello che mi sta chiedendo. Beh, ecco io. Io mi fido di lei, ma davvero può servire? Cioè, sapere queste cose, perché se mi dice che può servire ad aiutare mia figlia, allora risponderò sì, a tutto. Sì, mi è molto utile. Lei si fida di me? Io mi fido di lei. E le chiedo scusa se l'ho interrotta. Non è un problema. Dico davvero, anzi, vorrei che si sentisse libera di farlo. Se ha delle domande di come le faccia, voglio che lei parli liberamente quando risponde. Va bene, lo farò. Sa, essere mamma è bello. Ora magari lei penserà che sono matta a dirle questo. No, ma non lo sì, penso ma affatto. Sì, ma ha ragione forse. Lo vedo, sa come mi guarda. Lei pensa che non mi renda conto di quello che è successo perché non voglio stare male. Ma io lo so. E sto male. Sto malissimo. Lo immagino. Però vede, io sono viva e questo dolore lo sento. Lo sento forte ed è come se fossi ancora più viva. Io non so come dire, sembra assurdo, lo so. No, non è assurdo ed è normale. E poi non voglio dirle come ci si deve sentire. Non c'è un modo in cui ci si debba sentire. Io, ecco, dovrei chiederle. Lei amava suo marito? Non deve rispondere, se non vuole io non le chiederò il motivo. Le risponderò. Ho capito, non è un problema. Sì. Sì, lo amavo. Ci ci siamo amati molto. Ci siamo aiutati molto. Bene. Ci siamo amati subito. E abbiamo voluto nostra figlia. Abbiamo voluto Mary. Bene. Ma non è stato lui a dirmi di lasciare il lavoro. Ma io lo so, lo so, lei non ha detto questo. E magari non l'ha neanche pensato. Ma io voglio dirglielo. Che lo sappia e basta. Va bene, no? Se parlo, se le racconto. Ma certo, mi dica pure. I miei genitori pensavano che avremmo dovuto aspettare un po' per i figli. Ma io sapevo che Carla avrebbe fatto carriera. E infatti è andato tutto come volevamo. Lui ha avuto successo e io ho potuto fare la mamma e occuparmi di Mary e di lui. Anche lui si occupava di Mary, sa? Com'era Mary? Mary era bella, bellissima. Come adesso è bellissima, no? Ah, scusi, lei penserà che ogni mamma pensa di sua figlia. No, ho capito. Ed è vero, sì, è molto bella. Sì, è vero. Ed è anche tanto intelligente, sa? Cioè, anche se adesso sta male, lei non deve pensare che... Signora Phyllis, che cosa ha Mary, secondo lei? Come? Ha detto che sta male. Lei pensa che stia male. Lei non pensa che stia male. Non ho detto questo. Vorrei solo sapere se lei si è fatta un'idea di cosa... No, no, io non lo so. Io mi fido di lei. Insomma, lei mi sembra brava e credo che capirà che cosa mia figlia. E perché ha fatto... Vuole andare a casa? No. No, mi sono fermata. No, voglio restare e rispondere. Magari possiamo continuare domani. Ne è sicura, perché se vuole io non posso. Non si preoccupi, anche... continuiamo domani. Davvero, non è un problema. Lei vedrà Mary? Sì. Le dica che la sto aiutando. Ma certo. Anzi, no, no, non glielo dica. Le dica... No, non le dica niente. Come sta? Male. Vuole dirmi questo? Vuole che parliamo di questo? No, no, adesso no. La ringrazio, ora vado e domani allora mi farà le altre domande, giusto? E io continuerò ad aiutarla. Sì, tenga. Questo è il mio numero. Per qualunque cosa può chiamare. Ma no, non si preoccupi, domani verrò. Per qualunque cosa prima di domani, se vuole, può chiamarmi. Grazie. A domani. Stavo aspettando. Mi dispiace, aspettava per niente. Non voleva venire? No, dopo quello che ha fatto ieri. Cosa le ho fatto ieri? Lo sa benissimo. E lei me lo racconti, perché non credo di aver fatto niente. Senta, di male. La smetta, la smetta, non faccia i giochetti con me. Io non sono matta e non sono una bambina. Io ho capito che cosa vuole fare. Mary, cosa è successo? Perché non voleva vedere sua madre? Perché non la volevo vedere più, e invece lei. Mary, perché ha ucciso suo padre? Non ci si comporta così. Mary, risponda. Perché lo odiavo. E odio anche mia madre. Perché? Lei non odia nessuno. Non ho mai cercato di uccidere nessuno. Risponda alla domanda. Sì, credo di odiare alcune persone. E non vorrebbe che non esistessero più. Non le vorrebbe morte. Non crede che si sentirebbe meglio se non esistessero più? No, non credo che mi sentirei meglio. Non credo che ucciderei qualcuno nella vita. Perché è un reato? Sì, anche per questo motivo. E se non lo fosse? Credo sia contro natura. Contro natura? Dottoressa, mi meraviglio di lei. Non c'è niente di più naturale, siamo animali, no? Soltanto per sopravvivenza, Mary. Non è propriamente naturale, se no. Per sopravvivenza? Intende per legittima difesa? Sì, in qualche modo sì, anche. Quello è per non venire condannati per il reato. Allora viene ammesso. Allora, la legge ammette un caso in cui uccidere è giusto? Mary, torniamo alla domanda che... È giusto, che volevo... soltanto un attimo. Per me è importante. Dobbiamo trovare un modo per renderlo accettabile, no? No, no, no, no. Io e lei non dobbiamo fare questo. Io devo stabilire se fosse consapevole o no di quello che ha fatto mentre lo ha fatto. I discorsi che sta facendo adesso sono più che lucidi, ma la invito a non farli qui, non con me. Perché? Perché è meglio di no. Li faccia con il suo avvocato, tra sé e sé, ma non con me. Non li vuole sentire? Sono ragionamenti da criminale. Cos'è? Ha paura di me adesso? Non ho paura di lei, Mary, voglio proteggerla. Proteggermi? Io devo rispondere dei nostri incontri. Le cose che mi dice io le riporto, capisce? La prego di limitarsi a rispondere alle domande che le faccio. Adesso, mi dica perché odia i suoi genitori. Mary, mi dica perché odia i suoi genitori. Lei deve riportare tutto, vero? Sì. Quindi devo stare attenta a quello che dico? Deve stare attenta a non prendere sotto gamba la sua situazione. La verità, nient'altro che la verità, giusto? La verità a quello che io le chiedo, sì. A quello che lei mi chiede e basta. Le hanno fatto qualcosa? Non li sopporto. Non si è sentita amata? Ma l'ha vista. Chi, sua madre? Sì, mia madre. Le sembra che non mi ami, mia madre? A me sembra decisamente di visto? Sì. Visto? E allora perché lo chiede a me quando ha già deciso di credere a lei? Secondo lei non la ama? Non serve a niente, l'ha già convinta. Mary, mi dica cosa pensa lei, per favore. Vuole davvero saperlo? Sì. Mi ascolterà? Certo. Mi crederà? Questo non lo so adesso, ma l'ascolterò sì, senz'altro. Tanto a che serve? Non ci sono dubbi che mia madre mi ami. Lo pensano tutti, lo vedono tutti, è snervante. Cosa è snervante? Il suo modo di... Il modo di tutti e due. Io li ho odiati, sempre. Sempre addosso, sempre a preoccuparsi. Non ho potuto mai scegliere niente io. Le hanno fatto qualcosa di male? Sono stati egoisti. In che senso? Mi spieghi. In un modo subdolo, perché da fuori sembrava esattamente il contrario. Sono invidiata da tutti. Tutto quell'affetto, sempre a preoccuparsi, a interessarsi. Ma io so bene come stanno le cose. Mio padre mi odiava, non gliel'ha detto mia madre? No. Beh, lui avrebbe voluto un maschio. Glielo ha detto lui? No, non serviva. E da cosa lo deduci? Certe cose le senti, ok? Le senti e basta. Lei non crede nell'istinto, vero? Beh, no, certo, lei è una dottoressa, per lei tutto è scienza, tutto è razionale e basta, giusto? Io credo all'istinto. Certo. Le stavo solo chiedendo se aveva delle basi per pensare una cosa del genere. Le mie sensazioni sono giuste di solito, ok? È come quando sai che qualcuno ti si vuole fare, cioè, lo sai, non è che te lo dice. Capisco. Cioè, io le so le cose, non ho mica 4 anni. Si ricorda di quando aveva 4 anni? Come? Ha qualche ricordo? Qualcosa in particolare no, di quando aveva certo 4 anni? No, a quell'età non ti ricordi un cazzo, giusto? Prego? Scusi? Beh, no, credo di non potermi ricordare niente. Perché ha detto quell'età come esempio, l'ho allora? L'ho detto a caso, era un'età a caso. Mamma mia, dottoressa, com'è puntigliosa. Cioè, io capisco la scienza, però si rilassi ogni tanto. Non è che ogni cosa che io le chiedo lei mi può fare una domanda. Si parla e si faccia una canna ogni tanto. Lei non se le fa le canne, vero? Torniamo a suo padre. Quindi secondo lei non l'ha amata abbastanza perché non era un maschio? Mi odiava. Si capiva dal modo in cui mi guardava ogni volta che tornavo a casa la sera. Lui mi ha sempre giudicata, soprattutto per le mie scelte. Ma ha detto che non ha potuto scegliere niente. Parlo di ragazzi. Lui non la vedeva come me. Per lui bisognava scegliere una persona e basta. Come ha fatto con mia madre, no? Senza pensare a cosa ti renda veramente felice. Lei era felice? Cosa? Lei era felice, Mary. Mi ha detto che si sente coerente col suo modo di vedere l'amore, il piacere, la libertà. Ma non abbiamo parlato della felicità. Mi dica. Cos'è questa? Un'altra trappola delle sue? Si è sentita in trappola fino ad oggi? Ha finito? Io le faccio le domande. Lei lo sa. Non posso ogni volta spiegarle tutto. Se le dà fastidio, riprendiamo domani. Per me può andare. Sì, magari sì, riprendiamo domani. Buongiorno, non l'aspettavo così presto. Lo so, ma quando mi viene in mente qualcosa... No, non c'è nessun problema. Di cosa voleva parlarmi? Ecco, io... credo che lei debba sapere che mio marito mi ha tradita. Ah, e quando? Saranno passati 10 anni. No, meno, insomma... poi è finita, ma ha avuto una relazione con un'altra donna. E lei lo sapeva? No. Un giorno me l'ha detto dopo che era finita. E so che è finita, davvero, ne sono sicura. Ma ha voluto dirmelo. Come si è sentita? Voglio dire, lo ha perdonato? Ma certo, io amavo mio marito. Ed è stato onesto e non potevo lasciarlo. Era una persona meravigliosa. Lavorava molto per noi. Però ecco, pensavo che magari Mary lo sapeva? No, non le abbiamo detto niente. Era piccola, è ancora piccola. Però mi è venuto il dubbio. Pensa che Mary non lo abbia perdonato? Sì, può darsi, no? È possibile? Sì, certo, è possibile, ma torniamo a lei. No, io sono qui per mia figlia. Davvero, lei non capisce com'era buono. Lui si sentiva così in colpa che non riusciva nemmeno a guardarla in faccia. Così ha detto, me lo ricordo come se fosse ieri. Ha detto, non potevo più tenermelo per me. Non riesco a guardarti, se no. Non riesco a guardare Mary. Quindi è per questo che era strano. Gliel'ha detto Mary? Allora lo vede, ho fatto bene a proteggerla. Sì, va bene. D'accordo, la ringrazio. Ora però devo chiederle di aspettare. Ma certo, allora aspetto qui e aspetto che lei mi chiami. Sì. A dopo, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, l'ho fatta aspettare. Non fa niente, è venuta. Sì, ci ho pensato a lungo. A cosa? A lei, a ieri, a dove abbiamo interrotto il discorso. Preferisce che parliamo di altro? No, è ok, è ok. Vuole parlare della felicità. Della sua felicità, sì. Mi ha chiesto se sono felice. Sì, mi vuole rispondere. Beh, no, credo che nessuno in vita sia felice. Ma io c'ero proprio vicina, sa? Mi mancava tanto così. Pensava che facendo fuori i suoi lo sarebbe stata. No, non mi faccia dire cose che non penso. Io l'ho solo chiesto. Lo sa meglio di me, dottoressa, queste sue domande che cosa sono. Quindi, secondo lei non si può essere felici? No, nemmeno i miei genitori lo sono mai stati. Mia mamma ha lasciato il lavoro dopo che sono nata io. Mi odia anche lei, non si faccia abbindolare. Io so solo le cose che mi ha detto. E quello che mi sta dicendo anche lei ora. Sì, ma quella è brava. E anche lui era bravo. Lui suo padre? Certo, di chi stiamo parlando? Perché non lo chiama mai padre o papà? Perché lo odio. Lo ha ucciso perché era convinta che lui volesse un maschio. L'ho ucciso per come mi guardava. Una persona può impazzire a vivere così, lo sa? Una persona può impazzire. È un dato di fatto. No, aspetti, io non sono pazza. Lo so. Ah, allora si è convinta. L'ho visto. Lo vedo. E che cosa mi dice allora? Cosa vuole sentirsi dire? No, dottoressa, a quanto pare il suo lavoro adesso è finito, no? Non ancora. No? E che cosa dobbiamo fare ora? Lei niente. Lei... Come ha detto, è il mio lavoro. Io ho ancora cose da fare. Quindi questa è l'ultima volta che ci incontriamo? No, non questa. Dovrò vederla di nuovo dopo che avrà incontrato sua madre. Mia madre? Di nuovo? Sì. Io non voglio vederla, è chiaro, non voglio vederla mai più. Mary la incontrerà, mi creda, poi capirà che sarà stato meglio incontrarla di nuovo. Fa dei discorsi da madre lei, del tipo lo capirai quando sarai più grande. Credo sia perché sono una madre. Oh, una confidenza. Mary, lei ha pensato alle conseguenze tanto del suo gesto. E poi di colpo dice qualcosa di sé, della sua vita. Ci hai pensato, Mary? No, non ho pensato a nient'altro, va bene? Volevo soltanto uccidergli, ok? È questo che vuole sentire? È questo che vuole sentire? No, vorrei solo sapere se te ne rendi conto. Se ti rendi conto di quello che hai fatto e a quali conseguenze porterà. Non ho pensato alle conseguenze. Che scema, vero? Volevo talmente tanto farla finita con questa storia, con loro, che ho pensato a tutto, tranne che alle conseguenze. Forse alla lunga sono impazzita davvero, eh? Hai agito d'istinto, come tutto il resto. Mi trovo un mostro adesso, dottoressa? Pensa che sia pericolosa? Ha paura di me? No, mi dispiace per te, Mary. Che cosa? Le dispiace? Aspetta. Io qui non le permetto di avere compassione per me, cazzo! Avanti. Mary. Mary, tesoro. Tesoro, tesoro mio. Mary. Tesoro. Non mi chiamare così, mi farai impazzire davvero, smettila! D'accordo, d'accordo. D'accordo. Farò di tutto per portarti via di qua, tesoro. Mary, Mary, Mary. Non so cosa ti stanno facendo, ma vedo che non ti fa bene stare qua. Adesso mi occuperò io di tutto, eh? Ti farò uscire e troveremo un dottore bravo, ma che ti guarirà. Ma tu pensi che io sia pazza? No, no, amore, no, ma scherzi. No, io credo che adesso tu abbia bisogno di venire io via di qua. Io non sono pazza, lo sai questo, vero? Ma certo, Mary, io lo so questo. Adesso io e te ce ne andremo, insieme, eh? Andremo via da questo posto dove ti stanno facendo questo e troveremo un dottore bravo. Un dottore? Ma non perché sei pazza, no, no, no, ci dirà lui cos'hai. No, non voglio che usiamo questa parola, non te la prendere, amore. Io credo che ci sia qualcosa che non va. Come con la febbre, no? Prendi le pastiglie per la febbre. O come l'influenza, o la varicella. O solo questa volta è in testa. Oppure non lo so dove, ma troveremo io un dottore. Io non ho niente in testa, mamma. Io volevo uccidervi. No, tesoro, smettila. Non mamma, è colpa tua, mamma, non è di te. Ascoltami, cazzo, ascoltami. Io ti odio, lo capisci? Io non voglio più vederti. Io non volevo vederti più. Io volevo uccidere anche te, lo capisci? Lo capisci? E smettila con questa manfrina. Io lo so che mi odi anche tu. Cosa? Io lo so che mi odi. Mi odiavate tutti e due. Ma siete sempre stati due vigliacchi. Ma io no, ok? Io ho le palle per dire le cose come stanno e per farle, ok? Mary. Mamma, io adesso morirò, ok? Tu sei rimasta viva e io invece morirò, lo capisci? Che buffo, no? L'imprevisto. L'imprevisto, cazzo. Mary, ok, ok, mi metto subito a cercare un dottore. Io non posso lasciarti qua, non ti possono ridurre vai. Così. Vado subito. Vai! Vai, mamma, vai! Vai, mammina, mammina cara, mammina dorata, vai! Mary. Sei andata, sì? Sì. Come stai? Ormai siamo in confidenza, eh? Ormai dice tanto la fanno fuori, che sarà mai? Come stai, Mary? Di merda. Parlamene. No, mi sembra stupido. Si può parlare anche delle cose stupide. Volevo fare fuori i miei genitori. Invece ce l'ho fatta solo a metà e morirò io. Secondo lei come sto? Di merda, come hai detto. C'è... c'è qualcosa che posso... Proprio all'ultimo la dottoressa si preoccupa. Come nei film. Cosa vuole fare, eh? Vuole mentire? Vuole ritrattare? Diciamo a tutti che sono pazza così finisco in manicomio per tutta la vita? No, ok, proprio no. No, non voglio mentire. E sono preoccupata, sì. Lo sono sin dall'inizio. Ma davvero? Quindi era tutta un'armatura quella. Sono preoccupata perché tutto quest'odio è sano. È reale. E sono triste, anche. Ma davvero? Quindi un po' le piaccio? Le mancherò? Ma la vuoi smettere? Fino all'ultimo vuoi fingere che non te ne freghi niente? Mary, quello che accadrà è orribile. Né tu né io possiamo evitarlo. Dimmi come stai. Ma sai che mi sembra addirittura irresistibile. Mary, smettila, cazzo! Come stai? Tra poco tempo sarai morta. Cazzo, lo sai, è possibile che tu non voglia dirmi niente. Io non posso fare più niente. L'unica cosa che posso fare è ascoltarti, quindi parla. Dimmi qualcosa. Parlami. Mary, come stai? Sto di merda! Non voglio morire. C'è qualcosa che vuoi? Ora verranno a prenderti. E io dovrò consegnare la mia perizia. Noi non ci vedremo più. Tu non vedrai più nessuno, praticamente. Non ho pensato alle conseguenze. Ho agito d'istinto, che stronza. Mary, dimmi cosa vuoi. Un bacio. Cosa? Non è una sorta di ultimo desiderio, voglio un bacio. D'accordo. Dice davvero. Ora devi andare, Mary. Sì. Dottoressa, Mary, io... non dire più niente, davvero. Da questo momento in poi sarà meglio che parli solo con il tuo avvocato. Sì. Stavo aspettando. Ah, bene, alla fine non abbiamo rispettato gli orari. Non è un problema, signora Phyllis. Comunque, eravamo d'accordo sul fatto che se avesse avuto bisogno di parlare, prego, si accomodi. Allora, senta, io ora parlerò con l'avvocato e cercherò un dottore che possa curare Mary. Lei mi aiuterà, vero? Io non conosco questi dottori, però di lei mi fido e so che lei saprà trovarne uno. Signora Phyllis, lei parlerà senz'altro con l'avvocato di Mary. Ma prima, mi dica di oggi. Ha visto Mary? Sì. Sì, e non mi piace. Io non sto mettendo in dubbio le sue capacità, mi creda. Però qui non c'è soltanto lei, giusto? L'ho vista molto peggiorata. Molto peggiorata? Sì, mi ha detto delle cose orribili. Cosa le ha detto? Mi ha detto che mi odia. Ora è normale che figli a volte dicano certe cose ai genitori. Lei non può saperlo. La prego, mi dica cosa voleva dirmi. Sì, ecco, è il modo, capisce? Il modo, l'altra volta non era così. Lei è ancora un po' turbata, per forse. Per forza, sono turbata. Se lei avesse una figlia e le dicesse queste cose, capirebbe. Lei vuole aiutarla? Certamente. Signora Phyllis, sua figlia ha cercato di ucciderla. Sì, ma non stava bene, non sta bene, le sto dicendo, sta sempre peggio. Ho bisogno che mi ascolti. Ammettiamo che Mary stia bene. Ma non sta bene. Ammettiamo per un attimo che stia bene. La prego, mi segua. Lei vorrebbe aiutarla dopo che ha cercato di ucciderla? Lei non capisce, dottoressa, non l'avrebbe mai fatto se stesse. Signora, io ho bisogno che lei mi ascolti, però. Le ho chiesto di immaginare. Non è semplice quello che devo dire. Cosa c'è? Non si può curare? Deve esserci un modo per sua figlia fare non qualcosa. È pazza. No, certo che no, sta male, sua diciamo. Figlia voleva fare quello che ha fatto. Ma cosa sta dicendo? Mi rendo conto, è terribile, ma è così. Ha voluto uccidere suo padre perché lo odiava. E voleva uccidere anche lei. Sì, odia anche lei. La vorrebbe morta. Lei vuole ancora aiutarla. Ma cosa sta dicendo? Signora Phyllis, la prego, dica qualcosa. Dica qualunque cosa. Io l'ascolto, poi la farò contattare dal mio collega che potrà seguire. Cosa sta dicendo? Come fa a non vedere? Lei come ha detto che si fida. Questo è il mio lavoro, signora. Ma lei non l'ha mai vista prima. Prima non era così, prima. Lei si sta sbagliando. Mary, si sta bene. Cioè, non sta bene. Si sta rendendo conto di quello che le succederà adesso. Ma è sana. È sana di mente, intendo. E non è contenta che lei sia viva. Lei è qui perché sua figlia non è riuscita ad ucciderla, capisce? Perché fa così? Così, come sta facendo ora? Mi sta uccidendo, perché lo fa? Perché è la verità. E dovrà farsi aiutare per accettare quello che è successo. Ora lo uccideranno. Signora Phyllis. Ora lo uccideranno loro. Loro lo uccideranno mia figlia. La prego, sua figlia ha cercato di ucciderla. E questo che c'entra, eh? Come ha potuto permetterlo? Come ha potuto permetterlo? Signora, la prego. Ora lo uccideranno. Come ha potuto permetterlo? Per favore, potete portargli qualcosa? No, non voglio niente. Non voglio nessuno. Lei. È colpa sua se è successo questo. Io signora non voglio Phyllis, il suo aiuto. Si calmi adesso, la prego. La fa facile, eh? La fa facile. Che ne sa di come si sta? Di come sta una io madre? Lo so. No, non lo sa. Non lo sa. Lo so, invece. Lei ha figli? Sì, una bambina. Mi dispiace per sua figlia. Per quando verrà a sapere che ha fatto ammazzare la mia. Pronto? Sì, scusami, stavo finendo una... Sì, sì, sì, ho finito. Dove siete? Che giardino, quello... Ok, sì. Vi raggiungo. No. Poi ti racconto. Sì. Anch'io, sì.